dai. Check it out. E hey, io come va? Pubblico zero da DJ Manu è arrivato, a Legnano si è fermato, a radio mio amico è ospitato nel programma di Hip Hop. Caccio filtra senza stop, continuo sopra questo groove e ti vado ad elencare la mia crew. MC Joe, senti un po', Joe, dal 1991 Joe. Caccia la tua flow e dopo qui chi c'è? La DJ U e doppia ZI che ti spara il graffio sopra il D e alla fine c'è la I e Ianni sputa rime d'alta scuola. Pubblico zero, la strappo tutta in passaparola. Smettila con questa recita. Stammi a guardare, qui si fa un po' di pop. Io improvviso in un momento il mio intervento, quindi senti. Senti, qui si fa un po' di rap. Si dice hip hop. Vigevano, da dove vengo sai? E come mai? Hai bussato la porta sbagliata, sono pericoloso. Mi cazzo come un Rottweiler, mi cazzo come pochi. Lo sai, qui chi c'è di fianco a me? Sentilo qua, com'è che va? Si va, da giù, freccia di già. Lo sai che non sono Kumoti. Yeah, lo sai che non sono Mr. X. Bella lì, è riunita la mia gang. Quando suona incomincia con il suo bang. Tipo spara fuori a mille all'ora. Bella lì, canto questa onda sonora. La canzone stona, yeah. Ascolto questo beat mentre sto seduto qui sulla tazza del bignè. Yeah, mi mangio un bel calumè. E il mio bignè lo uso come calumè. La rima c'è. Ok, yeah. Ok. Senti qua, adesso che